Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ok, buonasera a tutti, buonasera a Maurizio Calzavara. Oggi inizio io, il solito giovedì inizia prima Agostino, però momentaneamente inizio io fino alle 9:30. Faremo un'intervista telefonica con uno scrittore. Ma cominciamo da questa frase: diventeremo i Beatles della scena indipendente. Antonio, ci sei? Ci sono, ciao. Ciao Antonio, Antonio Puglia, che è praticamente il redattore di, ha scritto su Mucchio Extra, su Jam, ed è, sei capo redattore di Web in Sentire e Ascoltare. Ma una cosa importante, perché ti abbiamo chiamato stasera? Perché hai scritto un tomo di 506 pagine sui Depeche Mode. Sì, proprio così. Bello, bello. Hai testi commentati, Antonio. Già il discorso testi commentati, non prendi solamente, non fai la tua traduzione di testi, ma commenti, svisceri, cerchi di capire il perché di un successo da 100 milioni di copie. Esatto, proprio così. Questa è una caratteristica della, di una collana dell'Arcana. Esatto. Sì, sì, sì, che è appunto la collana Text, che si occupa proprio del commento, diciamo, il più approfondito possibile sui testi di artisti più importanti, degli artisti più importanti, e quindi che ci sono stati negli ultimi chiaramente 50 anni di rock. Certo. Sono stati esaminati tantissimi artisti importanti, Patti Smith in ultimo luogo, Frank Zappa, i Beatles, di cui sta per uscire anche un secondo volume. Ah, bene. Molto, molto interessante, di cui in anteprima posso rivelarvelo. Bene, bene, sono molto contento di questa. Sì, sì, ho curato la prefazione anche di quel volume scritto da Massimo Padalino, e quindi diciamo che i lettori di questa collana sanno già di cosa si tratta. Per chi non la conosce, insomma, sappia che si tratta di un lavoro di commento dei testi che cerca di andare anche al di là del testo. Questo è intorno a quello che ho cercato di fare, cioè partire dal testo per poi raccontare un po' di cose, sviscerare un po' di cose. C'erano John Lennon, Paul McCartney, c'erano Keith Richards e Mick Jagger, e c'era David Graham e Martin Gore. C'erano, ci sì. sono, ci sono i loro due. Ci sono, sì, sì, sì, sì, sì. Sono sicuramente un duo portante della musica rock, pop, non solo, anche insomma si sono dedicati prevalentemente all'approfondimento delle sonorità elettroniche, allo sviluppo di queste sonorità. Esatto. Poi rientrano chiaramente nelle coppie dorate. Nelle coppie, diciamo, dorate. Più rock, di vent'anni, sì, sì. Tanti dischi, più di vent'anni di carriera, tante discussioni, scioglimenti, sono ricongiunti. Però sono rimasti loro, continuano ad avere un grande successo anche recentemente. Perché secondo te, Antonio? Ma guarda, secondo me loro sono stati molto bravi, anzitutto nel trovare un linguaggio proprio, un linguaggio personale, e lo hanno fatto attraverso dei tentativi. Loro non hanno trovato subito la formula perfetta, anche se, voglio dire, già dal primo album, questo magari poi ne parleremo più avanti, sì, esattamente. C'erano faceva insomma un po' intuire che non si trattava di un gruppo come gli altri. E quindi sono riusciti quindi a costruire questo linguaggio nuovo, e soprattutto farlo con un'impronta molto personale, tanto che delle band della loro stessa generazione, all'inizio degli anni '80, ne sono, diciamo, nate moltissime in Inghilterra. E scomparse anche, però. E poi sono scomparse anche nel corso delle decenni, quando invece, se tu pensi, loro nel 1990, quando la maggior parte, quasi tutte le band loro contemporanee erano ormai estinte, loro hanno pubblicato il loro album di maggior successo. È vero, è vero. Totale controtendenza, sì. Sì, è verissimo. Sì. Adesso andiamo, sì, come i gamberi, io e te ci siamo messi d'accordo prima, abbiamo deciso di proporre dei pezzi non esclusivamente famosi, perché John Dead Silence lo conoscono tutti, Personal Jesus lo conoscono tutti, ancora di più dopo la versione strepitosa di Johnny Cash. Noi vogliamo andare un po' coi gamberi, abbiamo scelto di iniziare con l'album più acerbo. Dobbiamo tener conto che l'album più acerbo, il primo album, è stato scritto interamente da Vincent Clarke. Sì, sì, sì, sì, non era ancora Martin Gore, non era l'autore principale. No, esatto, Martin Gore non era l'autore principale, era Vincent Clarke, che poi molti conoscono con gli Yazoo. Esatto, esatto, gli Yazoo e i Erasure sono poi i gruppi con cui ha continuato benissimo anche la sua carriera. Esattamente, perché l'album pure acerbo, però è molto accattivante anche dal pezzo, sì, che abbiamo scelto, New Life, questa nuova vita. Sì, sì, sì, assolutamente, ma loro avevano un gusto, Vince Clarke nella scrittura aveva un gusto pop molto, molto marcato, che veniva molto dall'ascolto della musica degli anni 60, dagli Everly Brothers, dai Beatles, e che quindi aveva questo dono quasi innato per la melodia immediata, per queste strutture molto elementari, molto semplici, che sono accattivanti, insomma. Ecco, 30 secondi per dire, Antonio, speak and spell, che cosa vuol dire? Da dove proviene il titolo? Da un famoso giocattolo che molti esatto. bambini, eccetera. Noi lo conosciamo come il grillo parlante, infatti esatto. il mio libro proprio così, rievocando quella sì, lo rievochi benissimo, tra parentesi, io l'ho letto, l'ho sì, qua davanti, sì. il pezzo che riguarda il primo disco. Sì, sì, sì, infatti, ed era proprio questo giocattolo che serviva quindi a riprodurre la voce umana, che dava anche insomma delle indicazioni per l'ortografia corretta. Era un giocattolo educativo, è un po' come se i Depeche Mode un po' cercassero di trovare un nuovo linguaggio con la musica elettronica. Mi è piaciuto leggerla insomma in questo modo, e poi anche perché loro hanno un approccio molto molto giocoso, si sente dalle melodie, non sono ancora i Depeche Mode oscuri esatto. che verranno più là insomma. Ok, sentiamo New Life, pezzo giocoso e godibilissimo. Radio Sera. Ok, purtroppo oggi le linee telefoniche vanno e vengono, probabilmente vanno e vengono non perfettamente. Abbiamo perso Antonio Puglia, che con cui stiamo parlando, stiamo commentando questo libro molto interessante dell'arcana editrice su Depeche Mode, testi commentati. Avevamo parlato del grande successo del 1990, di questo Violator del 1990. Ci siamo, Antonio, ci sei? Sì, ci sono. Oh, perfetto, era caduta la linea. Stavo parlando di Waiting for the Night. Perché abbiamo scelto un pezzo simile, secondo te, Antonio? Noi il grande successo di John Belize, Silence of Personal Jesus. Perché un pezzo oscuro, ma con un certo arrangiamento molto delicato e molto interessante. Qualcuno, tu hai parlato nel libro di Brian Eno e dei Tangerine Dream. Sì, sì, assolutamente. Sono delle influenze che si possono benissimo riscontrare, quindi è una musica molto molto delicata, quasi ambient, sognante. Sono delle sonorità che sono state appunto ricercate apposta da Depeche Mode e dal produttore Flood. Esattamente, dal produttore Flood, hai detto perfettamente. Sì, è importantissimo, proprio per esprimere la delicatezza notturna di questo pezzo. La notte, diciamo che è una tematica ricorrente nella poetica di Martin Gore, proprio certo, perché è il momento della giornata in cui riesce più a essere in solitudine, a cercare la quiete, a cercare la pace, e non è, diciamo, appunto vista in maniera eccessivamente banale o eccessivamente stucchevole come si potrebbe pensare, ma anzi, come possiamo vedere anche dal testo, c'è anche una certa ombra di inquietudine, c'è proprio anche una ricerca della notte come riparo dai pericoli della vita, dalle insicurezze, come cercare insomma un po' un nido, ecco, un rifugio. Sì, allora questa dichiarazione che giustamente ha detto Marty si potrebbe riallacciare a un discorso che aveva fatto un tempo fa David Graham, nel libro tuo c'è scritto una postilla. Sì. La nostra è musica bianca e molto europea e non è fatta per ballare. Non era perfettamente vero, ma era una provocazione probabilmente. Sì, perché chiaramente loro inizialmente non concepivano, cioè non avevano pensato alla loro musica come musica prettamente dance. Loro si stupivano del fatto che quando sono andati in tour la prima volta in Spagna, in Germania, in Europa, vedevano la loro musica messa etichettata come musica dance. Loro non avevano pensato alla propria musica come musica per ballare, quando poi effettivamente loro sono stati i padrini della techno. Certo, esattamente. Consapevolmente, sì. Antonio, quanto è stato difficile fare un libro di questo genere? Quanto ci hai impiegato? Beh, il lavoro di ricerca, soprattutto di approfondimento, chiaramente c'è stato. Insomma, si parla di un periodo di circa 6 mesi di lavoro effettivo, più insomma poi la ricerca. Un lavoro proprio full immersion, proprio così, Antonio? Sì, praticamente sì. Sì. Però insomma, credo che alla fine ne sia valsa la pena, perché è un'opera in cui sono emesse tantissime cose, non solo riguardo i Depeche Mode, ma anche riguardo un po' quello che è stato lo sviluppo della musica commerciale degli ultimi 20 anni, perché chiaramente quello che si tende a pensare è che si tratta di canzonette, si tratta di 45 giri, di un gruppetto così per ballare, un gruppetto leggero, quando invece poi sono effettivamente un gruppo che ha ovviamente la valenza artistica non solo dei loro predecessori, ma comunque che ha proprio un suo peso. Certo, il buon Agostino ha messo come sottofondo in John the Silence, giustamente, perché la conosce, certo. Chi è il pezzo più conosciuto loro, che ha aperto tutte le porte alla band? Una band che ancora adesso è all'apice del successo, nonostante un periodo di appannamento, vero Antonio, poi ha ripreso alla grande, e sono partiti da un piccolo villaggio, da un piccolo paese, si chiama Basildon. Ma perché è famoso Basildon? Per noi vecchi di una certa generazione, perché c'era la storia, è nato l'agronomo Jethro Tull, ti ricordi? Jethro Tull nasce proprio in quel paese là, questo agronomo, e Jethro Tull tutti ricordano come band sublime, certo, degli anni 70. Anche loro sono partiti da là, e anche tu, mi pare, sei ritornato al tuo paese, da Milano sei ritornato al tuo Basildon siciliano, è così, Antonio? Esatto, sono tornato nella mia Agrigento. Mi è piaciuto vedere anche in questo percorso che hanno fatto i Depeche Mode, come insomma cosa può significare, mi sono un po' rispecchiato cosa possa significare insomma partire da una piccola realtà di provincia e cercare di oltrepassare un pochino questi questi confini, di andare un po' alla scoperta del mondo, che è poi quello che loro sostanzialmente hanno fatto. Esattamente, hanno scoperto il mondo. Noi continuiamo e concludiamo questa breve carrellata, ma significativa, per parlare di un libro che dobbiamo leggere, ragazzi, un libro interessante, l'Arcana editrice. Arcana, come giustamente Antonio ha detto in presentazione, ha fatto tanti volumi di questo genere, ma questo è significativo. Uscirà, tu hai detto in anteprima, il volume 2 sui Beatles, ma abbiamo i Depeche Mode, copertina rossa, perché deve essere così, vero Antonio? Sì, è stata una scelta grafica, devo dire, molto azzeccata, assolutamente. Riflette molto la passionalità del gruppo, poi anche delle tonalità così un po' futuriste, devo dire, insomma, sta molto bene. Decisamente, libro interessantissimo da leggere, che si legge con velocità, Antonio, non si legge con pesantezza, perché spieghi, scavi in modo semplice ma effettivo ed efficace sulla tematica di Martin, i suoi testi, tanti testi problematici, pieni di riferimenti, ma i testi dei Depeche Mode, c'è poco da fare. Sì, no, è stato anche piacevole, divertente, perché ho trovato tante connessioni inaspettate, è stato proprio anche per me scriverlo è stato piacevole, certo è stato ovviamente un lavoro impegnativo, ma devo dire che come anche mia formazione personale è stato molto bello, un'esperienza molto bella. Adesso finiamo, dimmi Antonio, sì. Che mi auguro di ripetere, insomma, quanto prima, c'è qualcosa nell'aria. Cosa c'hai nell'aria? Un'anteprima si può dire o non si può dire, Antonio? No, non c'è ancora nulla di definito, però chiaramente questo non sarà l'ultimo. Assolutamente, siamo perfettamente d'accordo che non sarà l'ultimo. Avrai qualche altro, nel cassetto, qualche altro progetto sicuramente in mente da fare, da sviluppare. Arriverà qualcosa, sì. Concludiamo con una conclusione questo pezzo si chiama Good Night Lovers. Perché abbiamo parlato di questo pezzo? Perché abbiamo citato i Beatles all'inizio, Antonio? C'è un motivo. Sì. Good Night, il famoso Good Night, l'album bianco, i Beatles finivano così. E anche i Depeche Mode, su un album famosissimo, lo finivano con Good Night Lovers. Come mai, secondo te, Antonio, hanno deciso di concludere così? Sì, è un pezzo che si presta molto, Good Night Lovers, a chiudere un album che è molto... molto sognante, molto notturno, diciamo che è un po' la... Diciamo il titolo dell'album, Antonio, dai. Sì, che si chiama Excite. Esatto, che ha avuto delle contrastanti versioni dal punto di vista delle critiche, vero? Sì, insomma, non è diciamo tra i più stimati, perché si tratta di uno dei dischi meno ballabili. Esatto, meno ballabili, più oscuri, più introspettivi, possiamo dire questo. Sì, diciamo un po' la prosecuzione del brano che abbiamo ascoltato prima, di Waiting for the Night, sono brani che sono molto in questa vena così un po' ambient, molto sognante. E Goodnight Lovers è appunto la chiusura ideale, perché augura la buonanotte a tutti gli amanti, proprio perché ogni uomo, secondo Martin Gore, chiaramente ogni uomo non può fare a meno di amare, e in quanto amante non può fare a meno di soffrire. Ecco, questa insomma è una condizione universale che unisce tutti gli uomini, che unisce qualsiasi uomo, non importa dove sei nato. Esatto, come cantare una ninna nanna a mia figlia, diceva Martin. È vero, sì, perché anche in questo periodo loro diventano padri, no? La cosa bella anche dei testi di Depeche Mode, vedi anche come sono paralleli al loro vissuto, cioè quando sono ragazzi cantano le cose che fanno i ragazzi, quando sono adulti cantano proprio della vita adulta, parlano anche della vita di famiglia, è una cosa molto molto spontanea, molto genuina e molto bella, secondo me. Benissimo, grazie Antonio Puglia, autore di Depeche Mode, testi commentati, dell'Arcana editrice. Spero di sentirci un'altra volta, Antonio, per un tuo nuovo progetto, cosa dici? Assolutamente, sarà un grandissimo piacere, Maurizio, davvero. Grazie a te, Good Night Lovers e Depeche Mode. Ciao. Ciao, buonanotte. Grazie. Here danger signs, they only help to underline your beauty. I'm not looking for an easy ride. True happiness cannot be tried so easily. Like all soul sisters and soul brothers. Like all soul sisters and soul brothers. You can take your time, I'll be waiting. Like all soul sisters and soul brothers.